got lucky, turn her back again. He better come on in my kitchen. There's fun to be ready, I do. A woman I know took for my best friend. Some jungle got lucky, turn her back again. Bene, ci siamo. Buona serata a tutti da Radio Cerrano Web. Questo è Carl Bartel Boom che vi parla insieme questa sera a Vincent Daddy Butterfly. Allora, buonasera, come state? Spero bene. Noi stiamo benissimo. Prima di iniziare abbiamo fatto un po' di training autogeno e c'è anche un po' di vino qui. Siamo contenti. Training fermentation. Training fermentation, è vero. Con un po' di wine. E perché ci vuole. Stasera poi c'è tutta una novità qui a Radio Cerrano, perché da stasera sembriamo quasi Radio TV Cerrano. Questa è Mississippi Mood. Parleremo di blues. Ma questa sera parleremo di un qualcosa che ci riguarda molto, ma molto da vicino, e cioè di una splendida manifestazione di cui Vincent era il patron, perché per noi questa cosa non deve morire. E quindi parleremo di Green Hills in blues, tenteremo di fare un po' la storia. Ci è stato richiesto, ma è giusto così, è giusto che si parli di questa splendida manifestazione che ha visto scorrere in questa città tantissimi artisti di fama mondiale. E quindi ripercorreremo un po' alla volta. Ce la faremo, Vincenzo? No, credo metteremo un po' di più. Beh, di puntate. Diciamo che questa sera riusciamo a presentare, diciamo, una decina di artisti che sono delle prime edizioni, soprattutto perché il Green Hills in Blues in 15 anni ha annoverato tra le sue fila addirittura 150 artisti internazionali. Diciamo che questa sera mi fa piacere ripercorrere un po' la storia dagli inizi fino a un certo punto, perché sarebbe impossibile condensare in due ore tutta la storia del Green Hills in Blues. Comunque, come dicevi tu, siccome ce l'hanno chiesto, qualcuno addirittura ha detto: ma perché non parlate di quella manifestazione che manca un po' a tutti, manca al territorio, manca soprattutto agli appassionati e manca soprattutto alla città di Atri? E allora diciamo che con Carl, con i due Carl, Charles, abbiamo deciso di fare una serata all'insegna di questo ricordo, che poi lo faremo, diciamo, in varie occasioni, anche con l'andare del tempo, perché non è che si esaurisce questa sera questo ricordo. E niente, Carlo, io vorrei ancora sentire la tua parola e vorrei capire se stai bene, se queste vacanze natalizie sono andate bene. Dobbiamo fare il programma su Green Hills, sì. No, su me. E quindi, e quindi è giusto parlare di blues. Io volevo sottolineare anche questo, che naturalmente Radio Cerrano Web la potete ascoltare su alcune piattaforme come TuneIn, come Listen to My Radio o Radio Garden. E naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook, che questa sera vi offrirà, per chi andrà a visitarla, anche una diretta video. Quindi ci stiamo allargando. Poi c'è da dire un'altra cosa: stiamo lavorando per un secondo studio che naturalmente avrà sede appunto a Cerrano, nella torre di Cerrano, in uno splendido scenario. Io credo che siamo fortunatissimi che questa radio sta a grandi passi raggiungendo, diciamo, degli obiettivi abbastanza importanti. Beh, se da Atri riusciamo a vedere il mare, da Cerrano vedremo anche la Jugoslavia. È vero, non ci avevo pensato. Quindi poi naturalmente poi la nostra radio si ascolta in tutto il mondo, sì. E quindi non ci saranno problemi. Una volta mi ricordo che dall'altra parte del mare andai nella ex Jugoslavia e ascoltai addirittura da Dubrovnik una radio della nostra, poi si arrabbia il direttore, una radio della nostra zona. Però adesso questo problema non c'è con noi, quindi diciamo che abbiamo chiacchierato troppo? No, non abbiamo chiacchierato troppo, soprattutto volevo dire che quando abbiamo ideato questo Festival Blues nel 2001, il mio primo pensiero è stato quello di far arrivare ad Atri come un ambasciatore di questa manifestazione il più grande bluesman che noi abbiamo avuto in Italia, perché questo signore purtroppo che andiamo a presentare questa sera non c'è più, è partito per un riposo giustamente forzato. E niente, quella prima sera abbiamo deciso di far aprire questo festival, questo Greensing Blues, a Rudy Rotta, che secondo me è il più grande bluesman che l'Italia abbia potuto mai annoverare tra le sue fila. E Rudy Rotta quella sera ci portò un regalo straordinario, perché ci portò con lui il più grande organista secondo me vivente, quel Brian Auger che ci aveva deliziato già tanti anni prima, caro Carl, con delle cose straordinarie, ti ricordi? Sì, io guarda, sinceramente il festival me lo ricordo molto bene, e poi è stato la mia palestra per iniziare anche a fare foto degli stage, dei backstage, perché io sono appassionato di questo. E vi posso assicurare che ascoltare blues e fare fotografie è una cosa splendida, è veramente splendida. Sì, soprattutto i visi di questi musicisti che sembrano stravolti, però sono visi che evidenziano la loro sofferenza, soprattutto la loro passione e la loro grande emozione. Io direi di passare la musica. Rudy Rotta con Brian Auger all'organo Hammond. Boom boom. to change it. Where do you move, baby? Move it to the right. Move it to the left. Whoa, boom, boom. Oh, how, how, how, how. Oh, how, how, how, how. Oh, how, how, how, how, how, how, how, baby. Ah, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Pronto? Carlo, ci dovevi aprire il telefono, sì, buonasera, il microfono prima, così c'era un bel yeah alla fine, vero? Sì, questo fatto di chiudere continuamente il microfono mi dà l'idea che ci dobbiamo censurare. È vero, lui ci censura. E io, siccome, come dicevamo prima, Carlo, noi non abbiamo peli sulla lingua, ma soprattutto non è che abbiamo questi grossi scheletri negli armadi non faremo per la poter radio. Diciamo per poter anche avere una nostra piccola opinione o addirittura un'emozione, insomma. Quindi in conti stiamo parlando di musica, stiamo parlando di blues. Di blues, ma a noi la musica poi piace, ci dà tante emozioni. A proposito di emozioni, io mi corre l'obbligo di come si suol dire, salutare i nostri ascoltatori, quelli che ci stanno ascoltando, ma questa sera probabilmente anche quelli che ci stanno guardando attraverso la diretta Facebook. E, però io devo salutare una persona a cui tengo molto, a Edith, che ci sta ascoltando da Cracovia. Yeah. Ed è una città splendida, Cracovia. Beh sì, Cracovia è una città bellissima, soprattutto il suo centro storico è qualcosa di straordinario. Sì, in the center of the city, it's beautiful. Oui. Oui. Oui. Ma bene, bene, Vincenzo, torniamo un po' al blues. E quindi sì, torniamo a questa cavalcata che stiamo facendo attraverso Green Hills. Diciamo che questa avventura cominciò nel... Ti posso fare una domanda? Sì. Ma da che prende il nome? Perché Green Hills? Allora, questa è una bellissima domanda, perché mi ricollega proprio a quell'attimo in cui scegliemmo questo nome. Sinceramente io sono appassionato di fumetti, appassionato di storie indiane, e a un certo momento mi piaceva l'idea di unire la musica, il blues con l'immagine del nero, del black, e mi venne in mente di dire le Black Hills, perché le Black Hills sono state sempre, come dire, nella mia memoria di bambino innamorato, di ragazzo innamorato dei fumetti. E poi nelle Black Hills c'erano, diciamo, i miei idoli, da Cavallo Pazzo a Nuvola Rossa. Però in quel momento entrò nel mio negozio, entrò Aurelio Menozzi. E Aurelio, che diciamo è stato sempre un compagno d'avventure per questo festival, disse: che ne pensi, Aurelio, del nome di un festival Black Hills in Blues? Mi disse: Vince, ma per quale motivo Black Hills? Ma noi abbiamo tutte queste colline verdi intorno ad Atri, che ne pensi di Green Hills in Blues? Beh, dissi: Aurelio, questa veramente te la devo dare, diciamo, calda. Te la devo aggiudicare perché tu, come dire, hai centrato proprio il nome Green Hills in Blues, colline verdi in blues. Che poi ti hanno copiato quelle degli arrosticini. Sì, vabbè, ma quello è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Bene, quindi ritornando un po' alla storia di Green Hills, che cosa proponiamo adesso? Adesso proponiamo un musicista, grande musicista, che stranamente è scomparso pure qualche mese fa. Quindi stasera facciamo necrologi. Un po' come necrologio. Niente, questo musicista ha una storia straordinaria, perché lui era, oltre ad essere un bluesman, era anche un professore di storia del blues all'Università di Londra. È un grande personaggio, una figura mitica. E io lo invitai perché c'era anche l'intenzione, da progetto che la fondazione indicava, c'era anche di dare un indirizzo abbastanza culturale anche alla storia, cioè sì, far arrivare questi personaggi con questi titoli e poi magari fargli fare anche delle conferenze, fargli fare diciamo degli incontri con la gente. E io scelsi questo Andy Martin, che era un uomo straordinario, soprattutto perché lo conoscevo attraverso degli amici comuni, i quali mi dissero: guarda, questo signore, al di là del suo valore nell'ambito del blues, ma è un profondo conoscitore della materia. E questo arrivò ad Atri, addirittura venne ad Atri col pullman, insomma. E a mezzogiorno si fiondò a casa mia, accompagnata da un amico qui di Atri, e mi disse: guarda Vincenzo, ti va cercando questo signore, così così così. Allora lui sentì l'odore della cucina, e la tavola apparecchiata, si sedette e, come dire, disse: sono arrivato a casa mia. Grande. Volevo... Niente, volevo solamente dire che stiamo ascoltando Andy Martin. When the first trumpet sound, gonna get up out the ground. Ain't no grave hold his body down. Whips early in the morning, just about to break a day. Angel came from heaven and rolled the stone away. When the women came along and saw their saint had gone, ain't no grave holding his body down. Ain't no grave holding his body down. Ain't no grave holding his body down. When the first trumpet sound, gonna get up out the ground. Ain't no grave hold his body down. Ain't no grave hold his body down. Ain't no grave hold his body down. When the first trumpet sound, gonna get up out the ground. Ain't no grave hold his body down. Down the river, standing in the rain. Jimmy, Steve, and Muddy waiting on the king. See the soul brothers holding out the crown. Ain't no way to hold the blues boy down. Ain't no way to hold his body down. Ain't no way to hold his body down. When the first trumpet sound, gonna get up out the ground. Ain't no grave hold his body down. Ain't no grave hold blues music down. Ain't no grave to hold the blues boy down. When the first trumpet sound, gonna get up out the ground. Ain't no way to hold the blues boy. Hold the blues boy down. Andy Martin. Vince, devi salutare, credo. Bene, ci sono degli ascoltatori che stanno guardando la trasmissione in diretta. Francesco Rasicci, grande amico di blues, grande chitarrista. Ciao, Franz. Anche lui è stato al Greens in Blues, una delle prime edizioni a suonare, ma soprattutto Francesco è stato un supporter straordinario, perché non se n'è perso uno di edizione. E Francesco è uno di quei ragazzi che effettivamente hanno dato anche lui il suo apporto a questa idea del Green Hills in Blues. Io ci tenevo a sottolineare una cosa, che no, per quelli che non conoscono lo slang qui nostro dei bluesman, quando Vincenzo dice così così così è per riassumere in poche parole tutta una serie di cose che altrimenti sarebbe troppo lungo da dire, vero Vincenzo? Beh, sì, cioè se mi metto a parlare io posso parlare fino a domani mattina. Siccome a volte devo sintetizzare, allora dico spesso cucio cucio cucio. Questo è lo slang. Questo è lo slang Adriano. Adriano. Che poi tradotto in italiano sarebbe così così così, così, così. Ma io credo che ci capiscano, perché insomma. Ma sì, soprattutto. Allora, il nostro direttore è super felice questa sera, perché con questa diretta Facebook praticamente sta realizzando quasi un sogno, quindi stiamo per... Non solo questo, ma giusto, noi continueremo con questo, quindi... Comunque la cosa che mi piace, scusa Carlo, la cosa vai. Che mi piace di Carlo, il nostro regista, sai qual è? Sì. È che da quando siamo arrivati, già dalla prima trasmissione, ha detto dobbiamo fare una cena, siamo alla quinta trasmissione e qua non si vede manco un piatto. Cioè praticamente Carlo, almeno gli antipasti ti hanno tagliato il gas, gli hanno tagliato, cioè, insomma, dobbiamo fare come le antiche radio, no? Di una volta, sì, fare sì. Qualche saluto sì. Di contrabbando con metterci d'accordo con qualche pizzeria, qualche ristorante. Sì, sì, vero. Sì, sì. Vero. Ma lo si può ecco, fare se c'è credo. Qualcuno sì, ma sì, stiamo io questa è una cosa che mi piace dirla, stiamo praticamente quasi alla chiusura di una specie di contratto, chiamiamolo così, con una squadra di calcio a 5 che ci praticamente metterà il nostro logo sulla propria maglia, quindi ci stiamo allargando. Sì, ma soprattutto anche perché la radio, siccome si sente in tutto il mondo, ha la sua importanza. Adesso io questa sera parlavo con un'amica e gli ho detto guarda, devo andare presto a mangiare, andare a casa, perché alle 8 passa il mio amico Carl e andiamo in radio. Mi ha detto ma quale radio? Ho detto guarda, una radio sul computer, c'ha varie situazioni. Mi ha detto ma non è la classica radio che tu cerchi sul sintonizzatore, sulla radio? Ho detto, no. Noi siamo molto avanti con questa radio, siamo però oltre. Diciamo che si può sentire. Io adesso non so i termini tecnici, perché sinceramente c'è Carl e Carl che sono, diciamo, quelli che hanno più dimestichezza con queste piattaforme. Io diciamo che fondamentalmente sono terra terra. Così così cuce, così cuce, cuce. No, allora lo sapete benissimo, insomma la web radio ha i suoi pro e i suoi contro. Io credo che sono sempre di più i pro, e più si va avanti meno i contro. E, i pro sono che naturalmente la diffusione è ampissima. Io questo lo dicevo anche l'altro giorno ai miei studenti, adesso mi faccio un po' di pubblicità, all'università. E li invogliavo anche a dar vita a questo tipo di strumento di comunicazione, perché è semplice, è economico. L'inghippo dove sta? L'inghippo sta nel marasma generale in cui è internet, quindi nel farsi trovare, ma se ci si lavora un po' alla volta le cose arrivano. E io poi volevo sottolineare, scusate, un'altra cosa, che credo si senta, a sto punto si vede anche, ma noi ci divertiamo tanto a fare questa trasmissione, a fare radio, ad ascoltare musica e a proporre musica. È un nostro grosso... Vabbè, questa è una nostra usanza che risale dai tempi, diciamo, delle prime radio libere. Tempi dei primi romani. Diciamo che noi abbiamo fatto sempre radio e ci siamo sempre divertiti, anzi allora non c'era tutta questa tecnologia. No, io ti devo dire una cosa invece, io mi sto divertendo adesso, sì, molto di più. Ma pure io, e prima per me la radio era palestra anche di vita. E adesso invece me la sto godendo tanto. Sì, sì, ma soprattutto perché diciamo siamo in totale libertà, siamo anche con qualche anno in più abbiamo siamo la conoscenza anarchici. Ecco, siamo anarchici, insomma, non è che dobbiamo dire, dobbiamo aspettarci qualche sportellata da qualcuno, perché diciamo qui oramai siamo, come dire, sempre nell'occhio del ciclone, qualsiasi cosa si dice, c'è sempre qualcuno che ti dice non si fa. Non si fa. Non si dice. Bene, ritornando alla musica. Questo signore arrivò ad Atri con la moglie e una bambina. Era un grande chitarrista. Lui aveva militato per oltre 10 anni nella band di John Lee Hooker. E secondo me, quando l'abbiamo scelto, abbiamo anche guardato il suo curriculum ed è stata veramente una fortuna averla ad Atri, perché poi dopo questa tournée che fece in Italia difficilmente l'ho visto nei cartelloni degli altri festival. È uno dei più grandi musicisti della storia del blues, è un bianco, è un chitarrista, il suo nome è Roy Rogers. Thank you. Mississippi Mood, The Great History of Blues, with Carl Bartlebaum and Vince Butterfly. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Boom, boom, boom, boom. Shi, shi, shi, shi. No, mi piace sto stacco, Vince Butterfly and Violence, Carl Bartlebaum. Carlo ci studia la notte, ci studia, sì. Tanto lui non deve fare nulla, cioè lui è un... Come non deve fare nulla? Ma no, lui è, come dire, oramai vive di riporto, capito? lo so. La cosa più straordinaria di questi due Carl è che ogni tanto cacciano sul telefonino qualche foto di qualche ammiratrice, di qualche ascoltatrice. No. Io sinceramente non mettere in giro queste cose. No, vero. Io sinceramente dico, ma vabbè, a me sinceramente non è che interessa più di tanto quello che loro fanno. Giustamente loro sono ragazzi. Magari. Va bene pure così, però come dire. Una volta gli ascoltatori avevano, specialmente le ragazze, avevano un po' più di timore, un po' più di amor proprio. Ma questa è una ragazza. Sì, vabbè, insomma, Carl, io sinceramente, come dire, capisco le vostre golie. Sì, perché adesso siamo noi, il problema siamo noi. Bene. Allora, quello era un pezzaccio, eh? Sì, Roy Rogers arrivò ad Atri con la moglie e la figlia. Mi viene da fare una battuta. Sinceramente, quando lo portai nella sua location, nella sua abitazione, un piccolo appartamentino nelle ruette di Atri, con tutte le volte, con le travi, disse: ma dove stiamo qui? Ma qui stiamo in paradiso. Ecco, la differenza del Greenies in Blues era proprio questo, che noi non lasciavamo nulla all'intentato, cioè gli artisti avevano tutto il meglio possibile, perché come ho sempre detto, sempre asserito, ho sempre ricordato, un artista lo devi trattare bene, perché poi sul palco lui ti dà tutto, e questa è la cosa bella, è che l'artista si deve sentire coccolato, si deve sentire anche importante, perché poi quando sale sul palco si ricorda di queste cose, di tutte le attenzioni che tu gli fai, con tutte le cose amorevoli, il buon cibo, la giusta location, ma soprattutto la giusta atmosfera, perché Greenies in Blues aveva una sua atmosfera, è una cosa che nessuno ce lo potrà mai togliere. Io devo essere sincero, non è piaggeria, però lo abbiamo anche detto in precedenza, in questa città, in questo territorio sono accadute cose bellissime per quanto riguarda il profilo culturale, musicale, forse anche un po' troppo, nel senso che è passato quasi come è quasi scivolato sul tessuto culturale e sociale di questo territorio, senza capire che in fondo qui sono passati personaggi di grosso calibro, sia musicalmente ma anche in altri ambiti, nel senso che è un territorio, una zona in cui si è fatta sempre cultura, si è fatta sempre musica, e questo bisogna dirlo, grazie a veri e propri mecenati della cultura, come Vincenzo, come Emidio, come altre persone che si sono veramente spese per proporre alla collettività determinati personaggi, determinate persone, determinate determinati musicisti che erano in qualche modo di nicchia, quindi conosciuti solo da alcuni esperti e poi proposti a tanta gente. E il successo di queste iniziative è la riprova in qualche modo che il lavoro era ben fatto. Che ne dici? Ma sicuramente sì, perché poi una città come Atri, una città che ha un centro storico meraviglioso, anche se c'è qualcosa da obiettare, noi lo conosciamo bene, noi che siamo residenti, però diciamo che Atri ancora oggi ha un suo fascino straordinario, insomma, e quando qualsiasi artista di qualsiasi estrazione, sia essa musicale oppure artisti attori di teatro, di cinema, poeti, scrittori, che sono venuti ad Atri, sono rimasti tutti quanti, diciamo, meravigliati di questa perla. Tanti hanno detto: ma come, questo paese è così straordinario, così bello, con un'architettura ancora straordinaria, e chi lo conosce? Ed effettivamente, diciamo, non è stata fatta mai una grossa promozione, diciamo, di questa città come punto turistico, come punto di arrivarci per visitarla, perché tanti magari vengono ad Atri, si fermano lì alla piazza, massimo arrivano alla piazza del Comune, però c'è un centro storico della famosa Capodatri, che è, diciamo, la zona più antica di Atri, dove ci sono le famose ruette, e lì veramente c'è da scoprire un mondo tutto particolare. Adesso magari questa cosa la sta facendo grazie alla Proloco, che da qualche anno sta promuovendo i fondaci aperti, ha investito moltissimo sul quartiere Capodatri, e quest'anno in particolare la gente veramente ha potuto godere di tutte le sue dei suoi palazzi, dei giardini di questo quartiere. Diciamo che di Atri bisogna essere innamorati. Di Atri bisogna amarla, perché qualsiasi politico, qualsiasi persona che non ama Atri non farà mai il bene di Atri. Starà lì a vivacchiare e a dire: tira oggi che vedo domani, insomma, cuscio cuscio cuscio cuscio. Bene, ancora la parola alla musica, ancora blues. Be a lot of police in this world, but there's sure no music police. Yeah, I had my first guitar lesson when I was 5 years old. I'm still having the same guitar lesson. So I'm gonna start out with G, the people's key, and I'm gonna do like the old blues guy do, which is just make it up 1 second at a time. Thank you. been a cause to it. Uno dei chitarristi più straordinari della storia della chitarra, diciamo, acustica, resofonica, quel signore che si chiamava Bob Brosman. Un grande della storia della musica hawaiana, del blues, un innovatore, una persona che ha tenuto centinaia e centinaia di workshop in tutto il mondo, nelle università. Lui aveva una tecnica straordinaria. E Bob, quando venne ad Atri, addirittura capitò il giorno che noi la domenica facevamo il pranzo dietro al palco, e lui addirittura a un certo punto, dopo aver mangiato, bevuto, entusiasta, prese la chitarra e cominciò a cantare addirittura le canzoni napoletane. Fece una O Sole Mio veramente struggente. Dunque, come dire, il blues è la musica che unisce, la musica che ti porta in lidi dove tu non puoi nemmeno mai immaginare. Basta sapersi emozionare e soprattutto basta saper ascoltare. È una musica che trasporta, questo è sicuro. È una musica che prende l'anima, è una musica che a volte ti strappa anche il cuore. Soprattutto. Ed è una musica che in qualche modo o la odi o la ami. Non ci sono mezze misure per il blues, ed è una musica che in effetti è un po', l'abbiamo detto agli inizi di questo programma, è un po' la musica che è alla base e le radici di un po' tutti gli stili musicali che poi si sono succeduti nel tempo, dal rock al jazz. Il blues è una musica straordinaria, e io sento spesso dire quello è blues. Anche le stesse persone che suonano blues, se non sei blues, se non hai un'anima blues, se non vivi blues, non lo puoi suonare, perché principalmente non è una musica scritta, una musica dove tu hai dei punti di riferimento. Sì, ce l'hai come tutte le musiche, però è una musica istintiva, una musica che arriva proprio dalle radici, è una musica fatta di suoni straordinari. Infatti i chitarristi quelli neri americani, i primi chitarristi americani, non è che stavano lì a curarsi se la chitarra era accordata o se addirittura c'era qualcuno che suonava con una corda sola attaccata al muro, e anche quello era il blues. Ce ne sono tanti di esempi. Dunque, quando la musica esce dall'anima, esce dal cuore, quello è blues. E il blues ci porta anche a ricordare questo Mississippi Mood, ci porta a ricordare che questa è Radio Cerrano, che siamo rigorosamente in diretta, sono le 21 e 19 minuti primi. Siamo anche in diretta a Facebook, ci potete anche vedere e ci potete anche ascoltare su determinate piattaforme come TuneIn, come Listen to My Radio, come Radio Garden, eccetera eccetera. Sono piccole app. Mi piace quando annunci questo. Ti piace? No, perché mi piace. No, sono piccole, spieghiamo anche un pochettino. Sono delle piccole applicazioni che voi da Google Play potete scaricare e poi da lì inserire il nome Radio Cerrano o altre radio che vi possono interessare, e poi da lì ascoltare direttamente sul vostro telefono, sui vostri dispositivi, la radio. È una cosa molto smart, come dicono sì. I ben informati. Adesso io devo dire buonanotte a quella mia amica di prima. Allora, un buonanotte a Edith. Buonanotte, buonanotte. E come? Fiorellino. Dino, buonanotte. Sì, Carlo è impazzito. Carlo sta vivendo una, come dire, una straordinarietà. Bene, ma a me fa piacere. Niente, adesso vogliamo presentare un musicista devastante. Quando arrivò ad Atri aveva tutti gli ingredienti dell'uomo di blues, ma dell'uomo più fracicone del blues. Lui un bellissimo ragazzo, alto, con i capelli lunghi, tutti attorcigliati, con quel cappellaccio. Quella sera fece un concerto micidiale, arrivò gente da tutte le parti del centro-sud, perché era il primo anno che veniva in Italia in tournée, e stranamente, dopo Pistoia Blues, lui arrivò ad Atri. Eric Sardinas. Get my guitar to pawn, and when I got back home, my baby was gone. I'm gonna murder my baby. Woo! She'll stop her cheating and lying. Cause I'd rather be in the penitentiary, Lord, than to worry all out of my got back home just about 4 o'clock, and that's just about the right time when old Jack Daniels began to huff. So I scooted up to my window, yeah, to see what I could see, and I saw another man, baby, staring back at me. I'm gonna murder my baby. She don't stop her cheating and lying. Yeah. Why would you, honey? Cause I'd rather be in the penitentiary, Lord, than to worry all out of my mind. Yeah. Watch yourself. pawn. Well, when I got back home, Mississippi Mood, The Great History of Blues, with Carl Bartlett Boom and Vince Butterfly. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down at all your feet. Apri, apri. Apriti sesamo, Eric Sardinas. Cesemo. Eric quella sera fece un concerto straordinario, uno era show. Era il? 2003, luglio 2003. La cosa bella, sai che cosa fu, Carl? Che a un certo momento lui doveva salire sul palco e non si ritrovava il bassista. Insomma, così. Praticamente così. Tutti quanti ci chiedevamo, anche lui era un po' in apprensione. Vabbè, comunque c'era un'altra band sopra che continuava a mantenere, diciamo, calda la gente. A un certo momento vedemmo arrivare da Santa Nicola il suo bassista. E certamente Eric, io stavo vicino a lui, disse: ma dove sei stato? Dice: sono stato qui in questa chiesetta a pregare, perché prima del concerto io prego sempre. Cioè, questa è l'altra faccia del, diciamo, del musicista. L'altra faccia del blues anche. L'altra faccia del blues, perché questo musicista che arriva ad Atri e vede la chiesa e va dentro e va a pregare. Poi quando sei lì sul palco, totalmente trasformato, sembrava il diavolo. Mistero della fede. Sì. No, è che sì, io me lo ricordo quel concerto, come si suol dire, io c'ero. Me lo ricordo benissimo, mi ricordo la performance del musicista e di tutta la band, e mi ricordo anche il trasporto del pubblico. Quindi... Beh sì, lui fece uno show straordinario, addirittura quando poi fece quello show con la bottiglia di birra e poi cominciò a bruciare un po' la chitarra, chiaramente sempre così per un po' per lo show, ma niente di che, mise quella fiamma. Difatti c'è una foto bellissima di questo evento, quando lui con il fuoco sotto la chitarra e continua a suonare. Niente, Sardinas, diciamo che Sardinas fu l'inizio di una escalation straordinaria del Greenest in Blues, perché che scoprimmo anche un personaggio il quale dette anche una svolta decisiva, cioè ci fece acquistare anche un pubblico un po' diverso. Arrivarono sì. Molti ragazzi legati anche al rock blues. Sì, questo è stato anche un po' il cruccio. Io ho partecipato insieme a Emilio all'organizzazione di Ethno Rock, e è stato anche un po' il cruccio nostro nel momento in cui c'era da scegliere un po' i gruppi da far esibire. E in effetti alla fine abbiamo concordato, alla fine sarebbe insomma dopo il quarto quinto anno di manifestazione, abbiamo concordato che bisognava sempre avere comunque un personaggio che rompesse gli schemi e che attraesse anche magari gente che non proprio adepta, ecco. Per noi era un po' più semplice, perché comunque l'ethno rock poteva spaziare verso diversi generi, diverse contaminazioni. Per il blues era un po' più difficile. Però io volevo che tu, Vincenzo, ci spiegassi un pochettino quanto lavoro e che tipo di lavoro c'è dietro l'organizzazione di un Green Hills in Blues. Cioè, da quale momento si iniziava a lavorare per l'edizione tot? Come ci si arrivava poi alle serate? Beh, diciamo che noi, sinceramente, io non mi fermavo mai perché finita un'edizione già avevo in mente le date del prossimo, avevo in mente quello che mi era un po' sfuggito, avevo in mente quello che avrei voluto fare. Chiaramente, burocraticamente, era un lavoro che cominciava verso il mese di ottobre-novembre con tutte le domande, le richieste agli enti che partecipavano alla realizzazione del festival, ma diciamo che io già nel mese di gennaio-febbraio già avevo pronto il programma, perché, come dire, le primizie le dovevi prendere al momento opportuno. Non è che potevi stare lì ad aspettare maggio-giugno per fare un programma. Difatti c'è stato un periodo del festival dove, diciamo, i primi 10, 11, 12 anni erano proprio all'insegna della novità assoluta. Io difatti già a gennaio-febbraio avevo il programma, e a marzo-aprile già non c'era allora la rete che ti dava quella mano come adesso, però io già con i vari volantini, con le varie locandine, diciamo che già c'era un interesse, si muoveva già l'interesse, già il programma era già tutto pianificato. Ma soprattutto c'erano degli agganci a livello, diciamo, internazionale per quanto riguarda gli artisti, cioè c'era un circuito in cui il Greece in Blues ha avuto anche un profondo rispetto da parte degli operatori del settore, perché diciamo che a me già cominciavano a chiamare da novembre-dicembre, cominciavano a dire chi non veniva, chi veniva in tournée, quali erano le proposte, quelle valide. Io avevo sempre un carnet di proposte che si aggiravano intorno ai 20-30 nomi, che poi piano piano si spulciava e piano piano poi arrivava alla fine della programmazione. È chiaro che anche dovevi fare il conto con quelle che erano le risorse, però io mi ricordo che quegli anni c'era una bella sinergia, soprattutto c'era una sinergia con le amministrazioni passate e soprattutto c'era una bella sinergia con gli sponsor, anche perché soprattutto poi ad Atria arrivavano parecchie persone che erano appassionate e contribuivano anche loro, bene o male, anche non essendoci un biglietto d'ingresso, però loro magari contribuivano acquistando una t-shirt o un qualcosa che noi facevamo sempre per come ricordo del festival. Diciamo che il festival è stato amato e soprattutto è stato rispettato non solo dal pubblico ma soprattutto anche dagli operatori del settore. Io difatti ancora oggi ricevo continuamente mail, mi ci sento anche con questa gente e tutti quanti mi dicono: guarda che stiamo aspettando che tu rientri in campo. Ma io come dire, ormai ho deciso che questa mia creatura non dire cose che ma puoi... no oramai, Carlo, sinceramente solamente un avvenimento straordinario potrebbe farmi ritornare sui passi, però sinceramente il lavoro che abbiamo fatto in quegli anni difficilmente si può ripetere, perché era un lavoro molto ma molto molto duro, e soprattutto era un lavoro fatto con abnegazione, e soprattutto era un lavoro fatto da gratis. Like a hallelujah band, I've just been struck by a miracle. You're looking at a changed man. I'm not talking about religion, I'm not talking about the Lord, I'm talking about this little girl of mine and the joy that she has brought. She brought flowers to the desert, making me whole again. Flowers to the desert, she my lover and my friend. Flowers to the desert, love for love and gone. Flowers to the desert, thought I could carry on. Wandered through the desert, my lips were cracked with thirst, She brought me to a garden with every flower on this earth. She led me to sweet waters. She bathed my tired limbs. I washed and brushed and pressed and I'm now ready to live again. She brought flowers to the desert, making me whole again. Flowers to the desert, she's my lover and my friend. Flowers to the desert, you love, love and gone. Flowers to the desert, thought I couldn't carry on. I'm grinning ear to ear. I'm standing tall and stretching. I'm breathing in sweet air. No more Mr. Pity. No more Mr. Sad. I'm swimming to the future instead of drowning in the past. She brought flowers to the desert, making me whole again. Flowers to the desert, you're my lover and my friend. Flowers to the desert, love, love and gone. Flowers to the desert, I thought I couldn't carry on. She brought flowers to the desert, making me whole again. Flowers to the desert, she my lover and my friend. Flowers to the desert, love, love and gone. Flowers to the desert, I thought I couldn't carry on. Eddie Martin, inglese, arrivato ad Atri nel 2003 anche lui. Su questa inglesitudine, scusate il neologismo, di Eddie Martin si potrebbe discutere, nel senso che sai, un inglese che suona così, in modo così, con tanto trasporto il blues, non credo. Beh, gli inglesi, caro Carlo, hanno avuto sempre un occhio straordinario verso il blues. Se tu pensi che i Beatles, i Rolling Stones hanno cominciato suonando blues, diciamo che è tutto che dire, insomma. Questo è vero, ma io dicevo proprio quasi compenetrato nella tradizione blues americana. Sì, però c'è una netta differenza, c'è una netta differenza. Cioè? Gli inglesi sono molto più, un po' più freddini, perché diciamo che noi nel gergo del blues abbiamo, diciamo sempre, il chitarrista inglese non suda. All'epoca, guarda, questa distinzione la facevamo anche per il rock, nel senso che si faceva sempre una distinzione un po' tra il rock un po' più garbato degli inglesi. Vabbè, poi magari diciamo che erano un po' i Beatles, ma erano da molti considerati non rock ma più pop. Però una serie di musicisti rock, anche di gruppi rock, io penso al gruppo di Canterbury o a quei gruppi là un po' più raffinati, o anche alla stesso progressive, no, che poi ha avuto rispetto più alla rudezza, alla c'è da dire una cosa fondamentale, Carlo, che i musicisti inglesi o anche i musicisti americani, ma i musicisti in genere, non si sono mai inventati nulla. Cioè, il musicista, anche in Italia c'è stato un periodo del rock progressivo, se noi pensiamo alla PFM, al Banco, ai New Trolls, alle Orme, erano fior di musicisti, ma io te ne potrei elencare centinaia di gruppi. Scusami Vincenzo, hai citato i New Trolls e mi piace ricordare il maestro, il grande maestro, l'abbiamo fatto credo anche l'altra volta, grande maestro argentino Bacalov, sì. Che agli albori dei New Trolls, o comunque diciamo i tempi migliori di New Trolls, era il loro compositore, quindi il concerto, sì, grosso, il concerto grosso era un... di Bacalov. Sì, sì. Però ecco, voglio dire che gli inglesi in particolare, tu non pensare che Eric Clapton non abbia non abbia fatto le scuole diciamo di musica o le accademie. Scuole alte. Jimmy Page, il chitarrista dei Led Zeppelin, era un musicista di studio. Lui leggeva a prima vista, prima di fare Led Zeppelin, diciamo che ha fatto il chitarrista di studio. Su cioè, questo non ci piove. Tutti i musicisti, detto, sì. Ma diciamo da John Lennon a Paul McCartney, George Harrison, tutti quanti, ma i Rolling Stones, ma tutti musicisti, sono musicisti, non è che facevano un altro tipo di lavoro. Non vero? Puoi inventare granché. Non puoi inventare. Lo studio è fondamentale, lo dicevamo l'altro giorno quando abbiamo presentato il nuovo disco di Francesco Sbraccio, un nostro cantautore locale della zona, insomma, che è un bravissimo musicista, diplomato in pianoforte, si sta diplomando in composizione e direzione d'orchestra, nonché ingegnere elettronico, e si diceva proprio questo: non puoi inventare nulla né ieri né oggi. La musica è una cosa seria, e questo purtroppo bisogna capirlo, che chi si approccia, diciamo così, simpaticamente alla musica, magari giusto per esplorarsi un po' dentro, però la musica è una professione come le altre. Cioè, io quando sento "tu che fai?", io faccio il medico e poi vado a suonare. O fai il medico, vai a suonare. Cioè, io il musicista non è che il giorno, la mattina dopo, si alza e va all'ospedale a fare il medico. Cioè, c'è una concezione diversa. Sì, ma e gli inglesi, gli anglosassoni, che non sudano, specialmente i chitarristi, non sudano. Un unico chitarrista che io ho visto sudare era Gary Moore, ma lui non era inglese, era irlandese. Anche altri chitarristi irlandesi, insomma. Io in Irlanda ho visto una sola volta una rissa, ed era tra irlandesi e inglesi, nel senso che non so propriamente uguali. Bene. Adesso proseguiamo questa cavalcata sulle colline verdi, quindi sui Green Hills in blues, che ricordando qualche artista che è passato da queste colline, che ci ha lasciato anche il cuore, perché adesso andremo a presentare un artista che io... In che senso il cuore? Il cuore perché diciamo chiunque, Carlo, io lo vedevo negli occhi, nei loro occhi. Chiunque saliva su quel palco e guardava quella piazza così straordinaria, perché non ti credere che la nostra piazza ha un suo fascino particolare. Noi che siamo abituati ogni giorno a passarci centinaia di volte, magari è usuale, ma tu mettiti in mente di questi artisti che magari visitano delle città anonime, delle città senza nessun... Memphis. Capito? Sì, è vero, questo è vero. Ma lo stesso Memphis, non ti credere, sì, che appunto, Memphis, ma dicevo apposta. Capito? È vero. Cioè, io ti voglio dire, un centro storico che ti accoglie in quella maniera, ti avvolge con il pubblico, con tutta quell'atmosfera. Non ti credere che tutti quanti la sera, prima di andare a dormire, dicevano: sono stato bene. Sì. E lo porterò con me nel cuore. Ma questi sono i messaggi che spesso noi in qualche modo tralasciamo, ci facciamo scivolare addosso, e sono i messaggi anche delle pietre, sono i messaggi dei monumenti che nei secoli e in maniera continua perpetuano su di noi. C'è poi chi riesce a percepirli e chi no. Are you ready? Sì, è un po' un sacrilegio, no? Parlare su questo assolo di chitarra, però ci sono motivazioni tecniche. Perché questo finisce un po' a fregatura, come diciamo noi. No, no, finisce come finiscono tutti i blues, che a un certo momento stoppa e tu sei preso così alla sprovvista. E come... il suono continua a camminare, sì. Vero? E immagina che questo brano Walter Trout aprì il suo concerto qui ad Atri. Questo è un'incisione storica fatto al Paradiso di Copenaghen in Danimarca. E lui fece quell'anno lo stesso concerto che poi uscì questo DVD live a Paradiso a Copenaghen. Copenaghen. Beh, devo dire, in effetti sono stato a Copenaghen e ho notato questa grossa... Forse noi abbiamo un'idea un po' sballata del Nord Europa, no? Che magari sono un po' freddini, eccetera. Loro sono molto, ma molto più, come dire, acculturati, no? Sotto questo profilo. Sono molto... Ma non è che sono acculturati, Carlo. Loro hanno un tipo di vita che gli concede anche la possibilità di esternare le loro passioni, le loro emozioni. Cioè, noi più a nord andiamo... E più la gente sta più tranquilla. Sì. E quando la gente, diciamo, che sta tranquilla, che la gente vive un contesto anche di vita senza grossi problemi, senza grossi drammi, diciamo che la gente è più predisposta di fare una vita, i concerti, partecipare alla vita sociale con uno spirito diverso da quello che purtroppo possiamo fare noi e facciamo noi. Io rimasi un po' sconvolto a proposito di quello che dici tu, è proprio a Copenaghen. Io mi ricordo che entrai per caso in una chiesa, una bellissima chiesa protestante, perché sentì dei cori cantare, quindi stavano provando l'acustica alcuni cori di musica polifonica, ne erano almeno 3 o 4 cori, devo dire di ottimo livello, e dopo io rimasi lì ad ascoltare queste prove, e dopo una mezz'ora la chiesa cominciò a riempirsi. E allora mi venne la curiosità un po' di capire di che cosa si trattasse, e domandai a una signora che era il maestro di un coro, ma chi è che ha organizzato questa cosa? Lui mi disse: no, ti presento l'organizzatore. E l'organizzatore era un giovanissimo pastore, e lui, la cosa che mi sconvolse fu proprio questa, che lui disse: sì, questa cosa l'ho organizzata io per regalare alla città questo momento di musica, ed ho pagato tutto io, cioè tutta la chiesa aveva pagato questi cori, ed è la cosa che mi sconvolse. Anch'io, insomma, tu sai, anche io facevo parte di un coro, che lui ci tenne a precisare che questi cori dovevano essere pagati, cioè chi faceva cultura, chi in quel momento stava facendo musica e cultura, doveva essere pagata, doveva essere in qualche modo remunerata, ricompensata per quel grande gesto d'amore, diceva lui. E qui forse sta un po' tutta la differenza tra... Se noi pensiamo che ancora oggi qualcuno ti dice: vabbè, non solo che ti diverti, che cavalchi la tua passione, ci vuoi anche fare un guadagno, insomma. Cioè, noi abbiamo una concezione troppo, troppo distante da quello che è la realtà del rispetto nei confronti del musicista. E il musicista serio, il musicista che studia una vita, che poi nella musica non si finisce mai di imparare, un continuo esplorare. Tu non puoi relegare il discorso, cioè non solo che ti diverti, vorresti anche essere pagato, mi sembra riduttivo, ma questo è un discorso che fa parte della nostra cultura. Se noi qualche anno fa abbiamo avuto un ministro della Repubblica Italiana, ha detto queste testuali parole: con la cultura non ci si mangia. Chi l'ha detto che non ci si mangia con la cultura? Se noi vediamo anche i dati attuali della cultura in Italia, sono tutti in esposizione molto, ma molto, come dire, positiva. Dunque la cultura, che poi noi siamo un paese stranamente culturale, perché abbiamo un patrimonio artistico e culturale uno dei più, diciamo, fortunati del mondo. Dunque che vogliamo, che, di che cosa vogliamo parlare. Forse io direi che non abbiamo una classe politica all'altezza di quello che veramente ci serve per valorizzare questi paesi, e lo vediamo anche nel nostro piccolo, Carlo. Siamo in par condicio. A parte questo, no, meglio magari sorvolare su questi, su queste prese di posizione, perché comunque veramente ci porterebbe troppo lontano. Io ho raccontato questo episodio proprio per far comprendere la grossa differenza di vedute in tal senso, come hai detto tu. Lì a nessuno sarebbe venuto in mente, a nessuno dico proprio a quelli che partecipavano, agli spettatori, sarebbe venuto in mente una cosa del tipo ma stasera qui no, nessuno paga questi. Ti posso dire un mio sogno, Carlo? Sì. Che è chiaramente un sogno che non realizzerò più, perché, come dire, io sono oramai uscito fuori dal discorso organizzazione. A me sarebbe piaciuto tanto fare la notte di Natale alla cattedrale con un coro gospel insieme alla Pacini o insieme a tutti i gruppi, diciamo, atriani. E questo non è stato mai possibile farlo. Perché? Perché c'è sempre quella ritrosia che la chiesa è un luogo di culto, che la chiesa ci si va per pregare, che la chiesa è... Invece in altri posti la chiesa è un posto di aggregazione, un posto sì. soprattutto di per unire la gente. Sì, ma tu stai usando le parole che usò quel giovane pastore nei miei confronti, era proprio questo. Lui diceva: la chiesa è un luogo di incontro, di aggregazione, e quale migliore aggregazione fatta dalla musica e dalla cultura, ed aveva pienamente ragione. Ma ti ricordi il successo che ha fatto la Pacini con quel gruppo? Come si chiamava? Lì stiamo oltre, però, quei King Singers. Sì, vabbè, uno dei gruppi più straordinari sopra la faccia della terra. Credo, insomma, che attualmente siano i migliori, ecco, in assoluto. Volevo dire, se quel concerto fosse stato ripetuto 5 volte di seguito, sì, in quella settimana, sì, avrebbe fatto sold out 5 volte di seguito. E nessuno ci credeva, tra parentesi. Sì, nessuno pensava, perché proprio nemmeno... la ritrosia, perché, caro sì. Carlo, il discorso è uno solo. Quando tu hai a che fare con persone che la cultura la immagine solamente così, per dire, vabbè, tu che fai? Io faccio l'assessore alla cultura. Ma di quale cultura? Di cosa stiamo parlando? In effetti sì, questa è un'altra grossa occasione. Tu hai fatto bene a ricordarlo, un altro veramente grosso gruppo che è passato qui da noi. Stiamo parlando veramente dell'eccellenza mondiale nel campo della musica polifonica, che si esibì. E io c'ero, nel senso che c'ero anche dietro le quinte, perché poi la cosa più bella fu la cena dopo con loro, ma che non rimase senza parole quando entrò e nella cattedrale, e dicemmo loro che dovevano cantare lì di fronte a quel coro, a quel ciclo pittorico stupendo del Delizio. Anche per loro questa cosa fu veramente straordinaria. Ecco, forse noi dovremmo imparare ad apprezzare un po' di più quello che abbiamo, come dicevi, in termini di cultura, di monumenti, di patrimonio culturale, di apprezzare di molto di più il lavoro a fondo perduto di determinati personaggi che si spendono per la collettività, e poi dovremmo in questo modo dare il giusto rilievo, la giusta dimensione, quindi, a tutto quello che sa di cultura, quindi riuscire anche un po' a discernere la cultura dalla pseudocultura. Se me ne dai tempo, dopo ti racconto un piccolo aneddoto. Episode. No, facciamo parlare la musica, se no sì, questi ci spengono. Sì. Che dici, Vinci? Sei d'accordo? Vai. Woke up this morning, I was feeling around for my shoe. You know about that bed, had them all walking blues. I woke up this morning, I was feeling around for my shoe. You know about that bed, well, man, I had them all walking blue. Some folk tell me walking blues ain't bad. You see, what's so feeling I most ever had. Some folk tell me now, no more worries, oh, blues ain't bad. What's so feeling? He well, man, I most ever had. Let's go down south. To the graveyard and I peeked down in my baby's face. Said, I hope to see you, little girl, sometime round judgment day. Went to the grave and I peeked down in my baby's face. Said, I love you, I love you. He will, little girl, but I can't take your place. Blues ain't nothing but a lowdown, old aching chill. If you ain't never had the blues, people, I hope you, hope you never will. Blues ain't nothing but a lowdown, old aching chill. Never had home. He will, man. Hope you never will. I'm leaving this morning. I had to go ride that blind. I've been mistreated. I don't mind dying this morning. Go ride the fly. I've been mistreated. He will, man, don't mind dying. Kate B. Brown è stato l'attore protagonista del film di Scorsese The Solo Man. Mi ricordo quando venne in Italia. Io avevo già la collezione di tutti i film del blues e mi proposero questo artista che venne qui con una band francese, con un straordinario armonicista francese che ancora oggi è uno dei migliori qui in Europa, e fece questo concerto ad Atri straordinario. La cosa più bella in tutta l'avventura del Greenstein Blues, secondo me, è stato proprio questo unire sempre la parte acustica con la parte elettrica, con musicisti un po' più rarefatti o musicisti più roboanti. Diciamo che avevamo un occhio di riguardo per tutto il pubblico, che poi creare un programma dove vengono rappresentate un po' tutte le sfaccettature del blues non è una cosa molto molto facile, e noi ci riuscivamo soprattutto perché diciamo che la mia conoscenza era oltre, perché avendo il negozio di dischi poi avevo sotto mano tutte le nuove uscite, tutti i nuovi artisti senza pagare. Soprattutto senza pagare. No, allora mi piace, bello sto aggancio, mi ha fatto un assist, no? Nel senso che dicevi che Green Hills rappresentava anche un modo per unire una serie di sfaccettature del blues, e certo era importante. Questo è un piccolo assist che mi fai, perché comunque dobbiamo ricordare che in fondo Radio Cerrano nasce anche per questo, nasce anche per come dire, servire e unire un territorio. Non per questo voglio dire, noi siamo la radio del parco e io ci tengo a sottolineare questo. Questo nome parte appunto dal Parco Marino Torre del Cerrano. Tra parentesi, vedo che c'è Fabiano che ci guarda, lo saluto, e credo, Fabiano, che il nostro sogno si sta per avverare, nel senso che siamo andati oggi a visionare appunto l'eventuale studio a Torre Cerrano della radio, di Radio Cerrano. Ma questo perché per noi Atri, Pineto, Silvi, un po' la costa teramana, è un territorio che va valorizzato e servito. Questa radio serve a questo, Radio Cerrano nasce per questo e per noi è importante. Giovedì scorso abbiamo ascoltato un giovane cantautore che è venuto a presentare in anteprima, tra parentesi ve lo ricordo, oggi Francesco Sbraccia ha fatto uscire in uscita il suo video in anteprima che ha presentato qui a Radio Cerrano, così come il disco uscirà verso febbraio. Domani giovedì sera avremo un altro gruppo della nostra zona che verrà a presentare un altro CD. Insomma, l'interesse che abbiamo è comune, quello lì, quello di valorizzare questo territorio, perché diciamocelo, i grossi network non hanno una grossa attenzione per il particolare, per il piccolo. Noi questa cosa ce la stiamo facendo da soli e soprattutto con il grande supporto del Parco Marino Torre del Cerrano, che è un ambiente unico nel centro Italia, lo dobbiamo ricordare. Questo va dato merito a chi in modo lungimirante alcuni anni fa, una decina di anni fa, 10-11 anni fa, vide lontano e riuscì a istituire questo bellissimo parco. Anzi, veniteci a trovare. Che dici, Vincenzo? T'ho tolto la parola. Sei rimasto basito. Io volevo solamente dire che la valorizzazione del territorio, come noi al Greens in Blues abbiamo fatto la valorizzazione di tanti ragazzi, giovani musicisti abruzzesi, perché non dimentichiamo che l'obiettivo anche del nostro spirito, del progetto, c'era proprio anche la valorizzazione di entità locali. E io dico spesso: Abruzzo, terra di blues. Noi abbiamo tanti musicisti che suonano blues, tante band. Magari adesso, diciamo, è un po', come dire, un po' acquietato il discorso del blues, perché purtroppo non c'è stato un grosso ricambio. Ma se noi pensiamo che 15 anni fa, 20 anni fa, c'erano centinaia e centinaia di ragazzi che venivano continuamente, diciamo, anche a suonare al Greens in Blues, magari gli si lasciava un posto lungo il centro storico del blues di pomeriggio, qualcuno è salito sul palco grande, però c'era una voglia di valorizzare proprio l'entità, ma soprattutto la passione di questi ragazzi, e fargli capire che salire sopra un grande palco era anche soprattutto un onore, ma era soprattutto un impegno per potersi in certo qual modo anche esercitare, per poter allargare la loro visualità, e soprattutto per studiare, perché, come dire, se non si studia non si arriva da nessuna parte. E in effetti l'ascolto di grossi artisti è in qualche modo propedeutico, secondo me, a una buona carriera, o comunque ad allargare, come dicevi, gli orizzonti. Perché, ecco, si rischia, e questo forse è un po' la pecca delle nostre zone, no? Si rischia di rimanere confinati in un ambito che poi noi crediamo essere l'universo, ma così non è, perché comunque l'universo è molto più ampio. E quindi nel momento in cui Green Hills faceva approdare nelle nostre piazze, nel nostro centro storico, a me piace parlare di un territorio, perché così è, faceva approdare in questo territorio alcuni grossi musicisti, beh, io credo che chi si avvicinava alla musica, chi si avvicinava a questo tipo di musica, avesse quindi un panorama grosso che si dipanava di fronte a lui. Quindi riusciva a capire anche che la musica era fatta anche di studio, di passione, ma soprattutto anche di studio, di fatica. Ecco, questo credo che sia stato fondamentale. Questo è un merito che va dato a chi ha organizzato quella manifestazione. Ma sì, soprattutto perché i ragazzi li devi saper invogliare, gli devi dare degli esempi tangibili, cioè devi fargli capire che sopra quel palco c'è qualcuno che ha una storia dietro di sé, non nasce a caso. E allora il ragazzo è invogliato a capire, perché la passione poi si cavalca, si coltiva attraverso gli esempi. Non è che qualcuno te lo può raccontare per sentito dire, tu devi vedere, e noi facevamo vedere e sentire. Questa è stata la grande trovata di quella manifestazione, che poi se ne può dire di qualsiasi cosa. Io, per l'amor di Dio, sono stato sempre aperto alle critiche. Qualcuno mi diceva: ma perché non fai venire quello, non fai venire quell'altro, magari non sapendo i costi. Addirittura un giorno venne al negozio e mi disse: ma Eric Clapton quando lo fai venire? Cioè, ci immaginiamo venire Eric Clapton ad Atri? Cioè, lo possiamo far venire, per l'amor di Dio, basta che lo paghi. Non è che lui, Eric Clapton, dice: io non vado ad Atri perché Atri non mi piace. Guarda, io non credo anche che sia possibile una cosa del genere. Capito? No, lui sarebbe venuto comunque. Niente, adesso vogliamo presentare il prossimo artista, un altro artista che è uno di quelli veramente mondiali, perché quando arrivò lui, Eric Bibb, con la sua eleganza, col suo modo di cantare, tu immagina che in quell'occasione portava con sé il chitarrista di Tom Waits e il batterista era il batterista dei Simple Mind. Fece un concerto straordinario. Ah, ecco dove l'avevo visto. Il batterista, adesso che mi ci fai pensare. Sì, quello sì. Era è vero. Quello era il batterista dei Simple Mind che venne a suonare ad Atri insieme a Eric Bibb. Eric Bibb, Warrior Man Blues. It takes a worried man to sing a worried song. Takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. I went across the river, laid down to sleep. I went across the river, laid down to sleep. When I woke up, had shackles on my feet. 29 links chained round my leg. 29 links of chain around my leg. On each link, the initials of my name. Takes a worried man to sing a worried song. Takes a worried man to sing a worried song. Worried now, but I won't be worried long. I asked the judge what might be my fine. I asked the judge what might be my fine. 21 years on the RC mountain line. Train that I ride is 16 coaches long. Train I ride is 16 coaches long. Woman I love on that train and gone. Takes a worried man to sing worried song. Takes a worried man sang a worried song. Worried now, but I won't be worried long. Song. Anybody ask you who composed blues is song. Tell them what's new, and I sang it all day long. It takes a worried man to sing a worried song. It takes a worried man to sing a worried song. I'm worried now, but I won't be worried long. Worried now, I won't be worried long. Eric Bibb. Vincenzo, saluta il maestro. Sì, volevamo fare dei saluti che ci stanno, delle persone che ci stanno guardando, l'amico Marino Spada, Carletto Bizzarri, ma soprattutto il maestro Chiara Leonzi, valente violinista, e soprattutto, Chiara ha avuto l'ardire di Chiara fama. ha avuto l'ardire di formare questo gruppo, i Pacinini. E niente, Adri mostra tutta la sua cultura, la sua straordinarietà. E niente, Carlo, ti volevo raccontare quel fatto che ti dicevo prima. Noi abbiamo l'archivio di Orio ad Atri, che è un archivio importantissimo. Se tu immagini che l'archivio di Orio non è stato dato al suo paese di origine, a Tessa, a Chieti, al Marucina, al Lanciano, al Fenaroli, a Rimini, per colpa di un altro Leonzi no, per no, merito no, per merito, merito, per merito del maestro Concesio Leonzi, noi abbiamo qui ad Atri l'archivio di Orio. Sembra strano, ma di Orio è uno dei più grandi autori, compositori di musica contemporanea del Novecento, e il maestro Leonzi fa una grossa fatica anche ad aprire la porta della sede dove sta questo archivio. Cioè, l'insensibilità nei confronti di questo patrimonio che il maestro Antonio Di Orio ha voluto con amore, perché lui era appassionato di Atri, lui è stato per tanti anni ad Atri, ha diretto un coro ad Atri, ha fatto le sue rappresentazioni ad Atri. L'archivio Di Orio è tristemente dimenticato nel foyer del teatro, mentre invece potrebbe essere un luogo da visitare ogni giorno. È un luogo dove la cultura avrebbe un suo respiro straordinario. Allora adesso io per concludere e quindi farti arrabbiare ulteriormente. Sì, fammi arrabbiare, caro. No, è che volevo dirti che per mia passione ho ritrovato io l'intero archivio della prima banda musicale, della banda musicale locale. Sì. Stiamo parlando del 1830 fino al 1940, credo, e c'è un intero faldone nell'archivio storico comunale. Ed è interessantissimo perché comunque, a parte che c'è il primo statuto appunto della banda comunale, ma poi attraverso una serie di documenti, di manoscritti, di lettere anonime, si capisce proprio l'evoluzione di questa organizzazione, bellissima tra parentesi, perché naturalmente siamo quasi 80-90 anni di storia, quindi attraversa 80-90 anni di storia cittadina e italiana, quindi con tutta una serie di vicissitudini incredibili, quindi la guerra, il fascismo, e quindi attraverso lettere, attraverso anche addirittura ho ritrovato, no, tutta una serie di proposte pubblicitarie che grosse case che vendevano strumenti facevano alla banda, quindi ci sono degli splendidi manifesti con tutti gli strumenti, no, della banda, quindi l'offerta musicale, no? Adesso c'è Amazon, in quel periodo mi mandavano questi grossi manifesti che sono splendidi, bellissimi, veramente da far vedere. Però qui, anche qui, c'è bisogno di un lavoro di ricerca e di un lavoro poi di valorizzazione, perché comunque la ricchezza in questo territorio è questa, è inutile che ci giriamo attorno, la ricchezza è cultura, storia e io direi anche rivalutazione un po' della storia, perché forse un po' negli ultimi 80 anni ci siamo buttati un po' giù, ma da soli, e sarebbe veramente, credo, importante puntare molto, ma puntare nel senso, come dicevi tu, la cultura dà da mangiare. Ma la cultura è l'ultima, come dire, l'ultima chance che può avere una cittadina come Atri, perché oramai l'abbiamo visto, le entità lavorative qui ad Atri sono oramai disperse. Ma io direi comunque, scusami Vince, io direi comunque di iniziare a parlare in termini di territorio. Cioè, se è vero come è vero che questa è una radio del territorio, io credo che il futuro sia la sinergia del territorio. Ma sì, ma questo, cioè, si è qui sempre... bisogna ormai cominciare a parlare di Atri, Pineto, Silvi, ma in senso di città-territorio, anche perché storicamente il territorio è quello, era l'antico feudo degli Acquaviva. Carlo, anzi, arrivava Carlo, fino a sopra. Fino a quando la politica non si parla, fino a quando la politica non progetta, fino a quando la politica non ha delle visioni comunitarie, perché il discorso del campanilismo purtroppo porta sempre di più a chiudersi. Quante volte l'abbiamo detto che il campanilismo ci porta a rinchiudersi nelle nostre case, nelle nostre porte? Ad Atri purtroppo è stato sempre questo. Chiunque si è messo lì in politica ha detto bisogna coinvolgere, bisogna fare i programmi, bisogna fare le programmazioni con i paesi limitrofi per non far accavallare le manifestazioni, però magari poi questo qui rimane sempre un progetto che sta lì, nessuno lo cavalca. Perché? Perché progettare una programmazione comunitaria significa vedersi il novembre, dicembre, gennaio e febbraio già avere sotto le mani un ipotetico calendario, non arrivare a maggio, giugno, quando già i giochi sono fatti. Cioè, qui bisogna che chiunque si interessa di promuovere questo territorio deve lavorare, soprattutto deve amare questo paese. Io purtroppo dico sinceramente, da vecchio appassionato di Atri, come diceva quella buon'anima, sei troppo attaccato. No. Tu devi parlare in termini di territorio. Sì, io ma non vedo io ti sto dicendo, vecchio appassionato di Atri, e chiaramente riconosce le sue peculiarità. Io sono propenso, perché noi con la nostra associazione, Carlo, abbiamo fatto delle manifestazioni a Pineto, l'abbiamo fatto a Silvi, l'abbiamo fatto a Roseto. Io sono stato per 4 anni direttore artistico del Rock Wine and Blues Festival. Io ho fatto i gospel a Pineto per anni e anni e anni, insieme all'amministrazione Monticelli con D'Agostino alla cultura. Abbiamo fatto concerti di blues al polifunzionale. Dunque, cioè, a me parlare di sinergia con gli altri paesi sfondi una porta aperta, l'ho sempre fatto, e che purtroppo è rimasto un caso isolato. E questo, il caso isolato, purtroppo, come dire, è come la mosca bianca che quando ci stanno le mosche nere viene sopraffatto, e la mosca bianca ne va di chi è. Parliamo di blues, ascoltiamo blues che è meglio. Joe's barroom on the corner by the square. What the drinks were served as usual, and the usual crowd was there. In my right hand stood old Joe McKinney. His eyes were bloodshot red, and he as he turned to the crowd standing round him. And these were the very words he said. I went down to St. James Infirmary. My baby, there she lay, stretched out on a cold, cold white table, so cool, so fine, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever, wherever she may be, she may search that whole wide world over, but she never finds another man like me. Hans Tessing, musicista olandese, molto pregno di blues, venne al Greens in Blues con un trio di cantanti, ballerini africani, fece quella sera un concerto straordinario con una band straordinaria e fu veramente l'esplosione dei suoni dell'Africa, suoni del blues, intrisi di suoni africani, tamburi, danze, canti straordinari. E torniamo lì, te l'aspettavi torniamo dall'olandese? Dove sta? No, questo è come l'olandese volante. No? Nessuno si sarebbe aspettato da un olandese una sensibilità. Beh, io lo conoscevo Hans Tessing, Carlo. Non è... no, Carlo, c'è una cosa che devo dire sinceramente: non ho lasciato mai nulla al caso, cioè non mi sono mai preoccupato di quando ho deciso, quando abbiamo deciso di portare un artista, diciamo che l'ultima cosa erano i soldi, perché poi i soldi all'ultimo uscivano sempre, perché la bontà del programma era l'arma vincente per far arrivare la gente, per far godere questo territorio. Ma diciamo la verità però, dobbiamo sì. essere... No, sì. Perché questo è capitato anche a me. In molti casi io credo che le cose abbiano funzionato sia con Green Hills, sia con Suoni Mediterranei, sia con Ethno Rock, ma sia anche con... in etnie, eccetera, perché comunque in certe manifestazioni, laddove esiste la passione di chi lo organizza, quindi dietro c'è anche uno studio, una ricerca, una passione che è stata coltivata nel tempo, poi questa cosa la gente la capisce. Cioè, voglio dire, tu, io, altri si divertivano anche a faticare per quel tipo di manifestazioni. Io non dimenticherò mai, ad esempio, il concerto la sera di Piero Marras a teatro. Era un autore, un musicista a cui stavamo dietro da tempo, e non posso nemmeno raccontare le giornate che abbiamo passato. Alla fine siamo diventati amici, mi ha lasciato il numero di telefono. Stiamo parlando di uno dei più grandi cantautori etno, diciamo degli autori etno. Però ecco, la passione. Lui alla fine mi disse: guarda Carlo, io vengo per questa cifra perché io vi sento veramente appassionati. Levati dalla testa, questa è una cifra che non ho mai fatto, però alla fine questa cosa traspariva, e cioè la passione, l'amore per questo tipo di musica, per altro tipo di musica, come dicevi tu, per la voglia anche di far conoscere la propria passione, alla fine esplode e la gente queste cose le sente. Non organizzati da professionisti del business musicale, culturale. Carlo, dall'altra parte c'è sempre una persona che cerca di proporti un artista, o addirittura, se tu hai l'aggancio personale con l'artista, l'artista lo capisce con chi sta parlare. Però stiamo parlando di questi circuiti qui, badate bene. È logico che questo circuito qui, questo circuito diciamo un po' più acculturato, no? Non voglio essere razzista culturalmente, però questi circuiti qui con gente che veramente la musica la vive, cioè levatevi di testa che un manager di, che ne so io, di, no, Jovanotti no, ma insomma di grossi nomi possano interagire in questo modo. Oh Carlo, i grossi nomi, vogliamo parlare di quali grossi nomi? Cioè, vogliamo parlare della musica italiana, dove tutto è sopravvalutato? L'abbiamo visto le ultime vicende, che quelle che si sono, diciamo, poi sapute qui, che è successo ad Atri, insomma, artisti magari sul finire della carriera che vengono qui e col nome di chissà che cosa, tanto di rispetto, per l'amor di Dio. Però voglio capire, insomma, quello che ha fatto vincere queste manifestazioni è stato proprio la ricerca, perché io non mi dimentico mai, io dico ho avuto degli interlocutori straordinari, prima quella buonanima di Giovanni Finisi, che è riuscito a portare ad Atri veramente il grande jazz, ma poi con Emidio, sì. Con Emidio parlavamo continuamente, lui mi chiedeva: che dici questo, conosci quello, conosci quell'altro, e io magari gli parlavo di qualche artista che avevo in animo di portare. C'era un lavoro continuo, e quando tu ti interponi dall'altra parte, ti interponi con l'agenzia o con il rappresentante dell'artista, lui capisce che dall'altra parte c'è una persona interessata, soprattutto passionale. È competente anche, capito? Perché anche questa cosa bisogna sottolinearla, nel senso che quando si ha la competenza, poi le agenzie difficilmente si accorgono, sì, invece sì, del contrario, cercano anche l'agenzia, se parla con l'assessore di turno, dice: l'assessore, tanto i soldi non è che sono né dell'assessore né tantomeno di chi e della gente, di chi consiglia l'assessore. Capito? Sì, il discorso è questo. Invece tu, che fai i conti reali con quello che hai, allora che fai? Parti da lontano, piano piano ti avvicini a un prezzo che chiaramente sotto non ci andrà mai nessuno. No, poi c'è anche da dire che questo lavoro qui, quindi il lavoro dell'appassionato, tende anche al gusto della scoperta, no? E cioè, io ti porto in anteprima o qualcosa che secondo me poi diventerà qualcuno, diventerà veramente di cassetta, ma che in quel momento non lo è, perché è logico, è facile fare cassetta con nomi altisonanti, li paghi, però la sfida poi invece di queste manifestazioni era anche quella di riuscire a scovare, ma il nome che poi alla, dopo 2 o 3 anni sarebbe diventato anche un po' più importante, e credo che sia stato anche il tuo obiettivo. Io ti voglio parlare del prossimo artista che noi metteremo, Carlo. Del prossimo, poi ce ne abbiamo ancora due. Di quest'artista che è venuta ad Atri, e dopodiché quest'artista è stata successivamente per tanti anni la cantante della Casa Bianca. Con Obama, 8 anni di Obama presidente, lei è andata a cantare ogni anno nel periodo di Natale, nelle feste di Natale, è andata a cantare alla Casa Bianca. Quando è arrivato quest'artista in Italia e me l'hanno proposto, io non è che ci ho pensato su delle settimane, subito ho detto sì, ho detto bene, ok, voglio quest'artista. Dopo piano piano siamo arrivati a un cachet dignitoso, ma soprattutto un cachet alla nostra portata, perché non è che stiamo parlando di una cantante che è stata la corista di quello. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Shemika Copeland, che è la regina del blues attualmente. È la più grande cantante di blues che c'è attualmente nel mondo del blues. Thank you. Ricordiamo che questa registrazione fu fatta sul palco del Greenhill Blues ad Atri. Grazie all'amico Franco Di Peco abbiamo delle testimonianze straordinarie. Volevo salutare il mio amico e anche vicepresidente dell'Associazione Culturale Musicale Otis Redding, il mio compagno di musica di sempre, il maestro Mauro Di Ruscio. Ciao Mauro! Diciamo anche che la registrazione di questo programma la potrete scaricare e riascoltare in podcast naturalmente sul nostro archivio, che sarebbe poi archive. Oh Carlo, stavi parlando di questo vinello che Carlo ogni sì. sera, ogni volta ci mette qui davanti. No, mi ha favorevolmente sorpreso. Vabbè, sì. io non sono un grosso intenditore. Tanto, però... non te lo bevi tu, se c'è qualcun altro che se lo beve. No, però devo dire che mi ha veramente sorpreso. Un ottimo rosso, ma io, vedi, anche qui, poi uno dice che ci fa... c'entra sempre questa nostra viscerale, questo nostro viscerale amore per la nostra terra. Però anche qui no, è una cosa che forse, di cui forse noi non ci rendiamo conto. Noi in Abruzzo produciamo dei vini incredibili. Stiamo parlando qui, stiamo praticamente sorseggiando un vino che, come si suol dire, no, si compra in modo sfuso, di ottima qualità, a un prezzo incredibile. Cioè queste cose non sono possibili ovunque. Questa è una terra che produce attualmente dei vini splendidi, buonissimi, un rapporto qualità-prezzo, ve lo posso assicurare, io per un paio di volte sono stato al Vinitaly e l'Abruzzo fa dei vini incredibilmente buoni. Finalmente da più di 25 anni, dal periodo in cui dello scandalo del metanolo in poi, noi abbiamo imparato, perché prima eravamo un po' scarsini in questo, ma abbiamo imparato a fare vino e il nostro vino si vende in tutto il mondo ed è buonissimo. Cioè non puoi raccontare a nessuno che tu in questa terra, ecco, io domani vado lì, compro a 1,50 euro o al massimo a 3 euro al litro un barricato eccezionale, oppure poi mi sposto e vado a comprare a 7 euro al chilo, 8 euro al chilo massimo un olio extravergine. Queste sono le cosiddette nostre peculiarità, le nostre eccellenze, e noi di questo dobbiamo essere coscienti. Non lo so, certe volte io vedo che c'è troppa distrazione intorno, c'è troppo pressappochismo, ma stiamo parlando della prima industria di questa regione, cioè l'agricoltura, vino, olio, sono le cose che si esportano di più. E quindi, soprattutto nel nostro territorio. Sì, sì, sì, ma voglio dire, le terre del Cerrano ha delle peculiarità straordinarie. Ma faccio un piccolo esempio. L'altro giorno, un po' di tempo fa, per la torre proprio per il parco marino, ho accolto una troupe di una televisione tedesca che in mattinata era stata a fare sci alpinismo sul Gran Sasso. E il pomeriggio venne lì a girare, mentre quelli che avevano fatto sci alpinismo la mattina si facevano il bagno di fronte alla torre. Oddio, io non l'avrei fatto il bagno, era un po' freddino, ma loro, per i tedeschi, la cosa era fattibilissima. E lo speaker, quindi gli autori della trasmissione dicevano, hanno scritto i testi dicendo: è l'unico luogo al mondo dove la mattina puoi sciare e il pomeriggio puoi venire a fare il bagno al mare. Cioè, stiamo parlando di una cosa unica. Ecco, io credo che dobbiamo prendere coscienza di questa unicità. E poi, è anche vero un'altra cosa, dobbiamo lavorare per la salvaguardia di queste unicità. Cioè, qualcuno qui deve mettersi in testa che non è possibile una spiaggia così antropizzata, ormai non è più possibile. O la si difende, la spiaggia, il mare, e quindi significa anche depurare i corsi d'acqua che arrivano dalle colline, stare attenti al territorio, perché ormai la gente capisce tutto questo e va alla ricerca di zone tutelate, zone integre. E quindi qui dobbiamo entrare in gioco noi non solo politici, ma noi anche tutta la cittadinanza, tutto il popolo di questo territorio deve capire che o si va in questa direzione o non si va più da nessuna parte. Bisogna riscoprire il civismo. di appartenenza. Sì. E soprattutto bisogna riscoprire l'amore per questo territorio, per questo nostro Abruzzo. Ma tu non fai, infatti, non fai male a qualcosa che ami o a qualcuno che ami, non ti viene proprio in mente. Ed è questa la, io credo che hai detto la parola giusta, la parola magica, amore. È questa la chiave di tutto. Se questo territorio, se questa zona, se questa regione, se queste montagne, se questo mare si amano, allora bisogna tutelarle. Ormai su questa cosa non c'è più niente da dire, non c'è più niente da fare, come diceva la canzone. E questo significa che l'operatore turistico, l'albergatore, chiunque vive di questo lavoro deve capire che deve tutelare, non possiamo più sprecare niente. Scusate un po' No, Carlo, tu hai perfettamente ragione, perché poi la nostra trasmissione, sì, va bene, ok, parliamo di musica, parliamo di blues, questa sera abbiamo ricordato gli albori di questa manifestazione straordinaria, però parliamo anche di cose che ci accadono sotto gli occhi ogni giorno, lo vediamo quello che succede, no? E io dico una riscoperta di un civismo, ma soprattutto di un amore, di una passione verso il nostro territorio. È fondamentale, cioè, diciamo che siamo stati un po' abbandonati, perché tutte le strade che portano qui ad Atri sono strade impercorribili, altamente pericolose, e dice i soldi non ci stanno, invece i soldi ci stanno, perché purtroppo o non vengono utilizzati o vengono utilizzati male. Questo è come lanciare degli allarmi di passione, perché un conto è dirlo freddamente, un conto è dirlo con il cuore in mano. Molti che fanno politica specialmente dovrebbero ricominciare a mettersi il cuore in mano e a guardarsi dentro. E io perché... però no, su questo, scusa Vince, ti interrompo, ma non sono molto d'accordo, nel senso, la politica è l'espressione di questo popolo. Allora il discorso è o tutti ci diamo una regolata, ma nel senso proprio di civismo, come dicevi tu, cioè qui dentro ci stiamo tutti su questa barca, quindi è inutile che qualcuno pensi di buttare il sacchetto di oppure dico, faccio a caso così, no, di buttare i resti di un di qualcosa di mattoni eccetera nei calanchi, pensando di aver risparmiato 100 euro per lo smaltimento, tu hai risparmiato 100 euro di smaltimento, ma stai facendo un danno grave a tutta la collettività. Oppure tu, operatore turistico, che ti metti con determinate cose sul mare eccetera, cioè voglio dire, noi tutti dobbiamo essere, come dire, come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto. Dopo possiamo anche arrabbiarci con i politici. Soprattutto, Carlo, però io ti voglio dire solamente una cosa. Io l'altra mattina ho assistito a una scena veramente raccapricciante. C'era un signore in carrozzella dietro al belvedere, erano le 10:30 di mattina. Questo signore non poteva scendere dal marciapiede perché le tre vie di fuga per le carrozzelle erano occupate da macchine che avevano indiscriminatamente parcheggiato addosso. Beh, a questa allora, cosa. Mi dai ragione. Sì, io ti do ragione, Carlo, perché io mi guardo benissimo. Io non occupo un posto dove posso invalidare la possibilità e la libertà di qualcuno. È giusto, è giusto. E vai con questo blues. Noi naturalmente ormai siamo agli sgoccioli, Mississippi Mood, che poi diventa anche Cerrano Mood dopo una certa ora, e dopo anche il vino buonissimo che ci viene dato. Bene, l'ultimo artista che presentiamo questa sera è un artista non vedente, Brian Lee. Lui è di New Orleans. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Please just come on in, 'cause you might run across, I said, one of your old friends. And all your loneliness, yes I will. I'll play the blues for you. Hey, turn up that stereo. Yeah, crank up that tape player. I want to rap to you just a little bit. You know, I get lonely some too. Yeah, especially when I walk home in the morning and unlock my door by myself and take my clothes off by myself, get into my bed by myself. Then when I wake up, shucks, I'm still there by myself. I gotta get up and make my own coffee. You know, as my friend Albert King keeps saying all the time, loneliness is a very bad thing, and loneliness can get the best of you. In fact, I have heard of loneliness blowing some good people's minds. But ladies and gentlemen, boys and girls, no matter where you are, this is a very big world, and there's just too many nice things happening. What you got to do is hang tough. Yeah, put one foot in front of the other. Stand tall. Go for it all, because it's out there. And you know what I want to do right now? I want to give you my love, because you are the stars of my show. No matter whether I got 3 or 3,000. And the best way I can give you my love is if me in my guitar and my band just play the blues for you. I ain't got no big name, no. I ain't no big star, but I'll play the blues for you. Yes, on my big black guitar. And all your loneliness, ooh, I'll try to soothe. I know I can. I'll play the blues for you. Excuse me a minute. Mississippi Mood, The Great History of Blues, with Carl Bartlaboom and Vince Butterfly. Boom, boom, boom, boom, gonna shoot you right down. Let all your feet take you home with me. Ci piace questa cosa, perché comunque ci dà un respiro internazionale. Sembriamo che stiamo trasmettendo da Memphis. Sì. Invece... con le olive direttamente arrivate dalla Puglia. Sì, è vero. Abbiamo fatto questo gemellaggio interregionale. Ti devo dire che non è male. Tu non hai assaggiato nemmeno un'oliva, però perché poi c'è il reflusso. Il reflusso. No, però non l'ho assaggiato prima durante la trasmissione, adesso ne ho mangiate due. Mi bastano, perché così, giusto perché Carlo continuamente provalo, ho provate due. Mississippi però Blue. Te lo sei finite? Te le sei finite? Quasi. Mississippi Mood. Allora, Vince, facciamo un po' traiamo un po' le conclusioni. Io dico che racconto o ricordo a quelli che ci stanno ascoltando che questa sera abbiamo parlato del Green Hills in blues, o abbiamo fatto abbiamo tracciato una prima storia, un primo step di questa splendida manifestazione, ed è insomma una manifestazione storica che in qualche modo ha anzi togliamo in qualche modo, che ha instradato poi altre manifestazioni, che ha ha messo in giro, in circolazione questa, questo amore per questo tipo di musica non molto molto sentita, e io credo che il merito sia stato proprio questo, perché non, molti l'hanno definita, anzi molti la definiscono di nicchia. Tu sei riuscito in qualche modo a farla diventare un po' più ampia, perlomeno in questa area. E che dire, quale sarà il prossimo step o la prossima puntata? Il prossimo martedì sicuramente ritorneremo a parlare di blues un po' più, diciamo, specifico. Ritorneremo nel Mississippi, uh-huh, e parleremo di quegli artisti che piano piano arrivarono a Chicago negli anni 50, e da lì ci fu la svolta elettrica per quanto riguarda un blues molto più moderno, dove anche i Rolling Stones soprattutto e i Beatles attinsero per le loro prime performance e per le loro poi successive composizioni. Non dimentichiamo che i Rolling Stones sono stati uno dei gruppi più blues della storia del rock mondiale. Ancora oggi, proprio l'ultimo disco che hanno fatto qualche un anno fa era un blues, era un disco dedicato al blues. Sì, dunque, loro, sì, il loro amore è straordinario. Poi parleremo anche della famosa casa discografica della Chess Record, dei due fratelli polacchi che diciamo favorirono sia Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon e tutti gli altri grandi musicisti polacchi trapiantati in America. In America, sì, sì, questo è una cosa che mi interessa. Dicevo, voglio rassicurare un po' tutti, no? Che questa trasmissione viene registrata e poi rimandata in podcast, quindi la potete riascoltare, quello che diciamo quindi rimane tracciato. Questo significa che noi non abbiamo paura delle nostre affermazioni. Assolutamente, noi non abbiamo detto male a nessuno questa sera. Abbiamo ma ci mancherebbe. Abbiamo forse puntualizzato certe peculiarità. Siamo persone libere. Ma questo, ma libere veramente. Sì, ma questo, Carlo, è un piacere poi esternare le proprie passioni, le proprie emozioni e soprattutto il proprio pensiero. Guai l'uomo che si nasconde dietro un dito per cercare di nascondere cosa. Io non mi sono mai nascosto e continuerò a non nascondermi mai. Ma volevo puntualizzare così, giusto? Sì, sì, ma dire, io la stessa cosa faccio. Cioè, ognuno poi si porta, come dire, nella sua valigia il suo blues. Se è capace poi di aprirlo e di farselo piacere, a ognuno il suo blues. A ognuno il suo mood, io direi. Allora salutiamo tutti, salutiamo quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, quelli che ci hanno scaltato da qui, da queste zone, dall'estero, perché abbiamo anche... Salutiamo quell'amico dal Brasile che... Sì. Che ci scrive continuamente, e lui addirittura dall'altra parte del mondo. Marcelo Candido, sei un hombre sincero. È un hombre sincero. Allora ragazzi, io mi congedo da voi insieme a Vincenzo, e l'appuntamento è per martedì prossimo, mentre giovedì saremo ancora qui, giovedì sera, con le mie schegge impazzite e con ospite un gruppo di nostra produzione, di produzione locale. Mi fai sapere che è il nome di questo gruppo, Carlo? Vince, guarda, sei proprio un... Sì, sono curioso. No, non ve lo ricordo. Ah, ecco, vedi. No, vi ricordo Corrado, che saluto, Corrado De Fabrizis, che è uno dei leader di questo gruppo. Io non mi ricordo bene il nome del gruppo, Soul è qualcosa, insomma, c'è di mezzo il Soul, credo. Però va bene, noi poi giovedì saremo più precisi, sarò più preciso, sì, sì. E presenteremo in anteprima il loro disco e un loro nuovo progetto musicale. Stiamo parlando anche qui di forze veramente... di forze locali, di gente che lavora sodo, e è un gruppo che tra parentesi si è fatto le ossa per 3 o 4 anni in Irlanda, quindi ha girato l'Irlanda, Dublino e i club di Dublino irlandesi, e ragazzi sono veramente tosti, e veramente brava gente. Viva la musica, affinché la musica sia libera veramente. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie a tutti di essere stati con noi. That baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How, how, how, how.